lebon lepon amon nabi dana am bam ane yene veke xam ndax zerer veke de waye bi de ben zerer lawon legi zerer bi buñ ci dekkam dal manam dekk ci negam di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw manam sala go digan ñew fekke mi ngi wer ileram ci wettu negam mu jël ko di dem tol bi mi dem tol nak mu jël gop bi rek dal di yeen ndaw si fekke ndaw sa ngi nelaw mu jakarlo mom ndaw si nak mi ngi tuddu ndew te ndew momu nak dafa zaganu dekk te ndew da nelaw yu neex yi mi nelaw yeb dafa zaganu xamna nak er bi mako jaar fof diko duggu motax ngi nelaw di nelaw ni nelaw yu neex ngor nak wala dem ci guana ba bay waye mu taxaw xol ni ah fe tol la fi tol la te bay rek la te bay ciona la bay bi bu fekke amato nay amna mbekté man dal pan ma bay fi je préfère bay fi ngor duggu fof rek yeek ci kaw ndew rek commencer bay ci tol la di doori ngadji di door ba siar rek ngel fek ko fa rek ndew ni ko lay ni jay ngor yaay domi haram mo ndew jogol yaangi jeex ndew xana gisso go digal mi sa kaw ndew jogol yaangi jeex gis na ko wallay may bay bam pare rek ma has ko bobu la fa joge man dal di dem